Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 23. Il lavoro al Research Council con Andrew Nelson e gli incarichi speciali che mi venivano affidati per assolvere i quali dovevo visitare pensionati femminili, municipali, campi per i vagabondi, centri di assistenza, colonie cooperative e università dei vagabondi. Tutto ciò riempiva la mia vita, ma non ero del tutto soddisfatta. Poi, un brutto giorno, arrivò un telegramma di Ena, la quale mi comunicava che la casa della mamma era andata a fuoco e che nell'incendio nostra madre aveva riportato ustioni così gravi da morirne per poche ore dopo all'ospedale. Di conseguenza mi rimandavano la mia bambina. Oltre al dolore per la morte della mamma, provai anche un certo turbamento all'idea di tornare a vivere con mia figlia. Che cosa c'era che non andava in me? Avrei dovuto essere lieta di quella parte della notizia, avrei dovuto gioire al pensiero di essere di nuovo insieme a mia figlia, ma in realtà ero lievemente a disagio. Quando provai a dire a me stessa quant'ero contenta e quando cercai di ripetere le cose che una madre deve dire in simili circostanze, mi resi conto di recitare. In realtà sapevo bene, per una ragione o per l'altra, non avevo mai accettato pienamente il ruolo di madre. Ciò nonostante, quando un'amica della colonia me la portò, fu un piacere constatare che era una bambina robusta e felice. Sembrò contenta di vedermi, ma non manifestò particolare interesse per il fatto che fossi sua madre. Mi considerava soltanto una donna che era gentile con lei, come lo erano state tutte le donne della colonia. Presi in affitto un grazioso appartamento per entrambe e con il mio salario potei permettermi una donna di colore che badasse alla casa e alla bambina durante il giorno, mentre ero fuori. 12 anni prima avevo promesso a Lowell Schroeder di trascorrere con lui il mio 30° compleanno. Così, quando Nelson mi affidò un nuovo incarico che mi avrebbe portata a Ovest, ne fui felice. «Stai diventando una vera e propria assistente sociale, Berta», mi disse Nelson. «Ogni volta che ti metti in viaggio come una vagabonda, il tuo conto spese risulta più salato di quello di un viaggiatore di prima classe. Vado spesso in aereo ultimamente, ma non spendo tanto quanto te. Ora Chicago è diventata il quartier generale delle vagabonde americane. Voglio che ci vai, senza un soldo, per vedere come si trattano. Voglio vedere se ti danno dei vestiti». Quella sera, stracciata e senza il becco di un quattrino, presi un rapido per Chicago. Baby rimase con la cameriera negra. Non esitai ad abbandonarla, anzi mi sentii invadere il cuore da una gioia segreta al pensiero di essere di nuovo libera sulla strada. Durante il viaggio incontrai molti hobo, ma soltanto 4 donne. Evidentemente l'autostop era diventato più facile. Blondie mi aveva detto che Chicago presentava non poche novità in fatto di assistenza alle vagabonde e volevo rendermene conto di persona. Scesi allo scalo della Illinois Central senza farmi beccare. Sulla Michigan Avenue fermai il primo poliziotto che trovai e gli dissi che ero al verde, senza un posto dove andare. Mi indirizzò all'ufficio federale per l'assistenza ai vagabondi, al numero 7 di Hearst Harrison Street, dove gira il tram per la Broadway. C'era una folla, la sala di ricevimento era al primo piano ed era piena zeppa di gente. Le sedie erano tutte occupate e molti erano seduti sui davanzali e sulle valigie. almeno la metà dei postulanti erano negri. Spiegai che ero venuta fin lì in autostop da Kansas City per incontrarmi con uno zio di Denver che mi aveva scritto dicendo che mi avrebbe portato a casa con sé, ma non ero riuscita a trovarlo. La ragazza che prendeva nota di quel che dicevo su una scheda blu era appena uscita dall'università. Capii dai suoi occhi che mi considerava un caso interessante da esaminare. Mi fissò un appuntamento per un colloquio con un assistente sociale che mi ricevette dopo oltre 2 ore di attesa. Era una ragazza irlandese piuttosto carina. A quel punto ero decisamente affamata, perciò la mia storia fu convincente. Quando l'assistente sociale vide che ero interessata al funzionamento dell'organizzazione, mi disse tutto quello che volevo sapere. Al momento, quello era l'unico centro federale per l'assistenza ai vagabondi in tutta Chicago. Faceva parte dell'ufficio per l'assistenza pubblica della contea di Cook e operava in stretta collaborazione con gli altri settori dell'assistenza pubblica. Il ricovero di Mary Dewes non c'era più, e non c'era più nemmeno un ricovero femminile. Delle donne e delle famiglie si occupavano nel centro di Harrison Street. I ragazzi e gli uomini invece venivano mandati al numero 363 di West Randolph Street, dove c'era un dormitorio maschile. I casi definiti legalmente in transito senza fissa dimora venivano mandati al campo. I bianchi in quello vicino a Danville, i negri in quello vicino a Cairo. A tutte le donne veniva concessa la cosiddetta assistenza esterna. In altre parole, l'organizzazione pagava l'affitto di un alloggio purché non superiore ai $10, compreso l'uso di cucina, e alla donna dava $10.36 al mese per il vitto. Esattamente la stessa cifra che veniva corrisposta a qualsiasi persona assistita da altre branche dell'ufficio per l'assistenza pubblica della contea di Cook. Nei casi in cui non era possibile organizzare con sufficiente rapidità l'assistenza esterna, le donne venivano alloggiate temporaneamente nella Sarah Hackett Home, presso l'Esercito della Salvezza o all'Inca. Io fui assegnata all'Inca per quella notte. Quando l'intervistatrice ebbe finito di registrare i miei dati e di spiegarmi come dovevo compilare l'affidavit singolo che ora il regolamento richiedeva, notò che i miei vestiti erano piuttosto malconci e mi consegnò un cartoncino con il quale avrei avuto accesso al laboratorio di sartoria al numero 4929 della Indiana Avenue. Lì avrei potuto confezionarmi della biancheria e anche un vestito se avessi avuto la pazienza di rivoltare un abito vecchio. Fui felicissima di quella scoperta. Il progetto delle università per vagabonde stava dando i suoi primi frutti. C'erano 51 donne intente a cucire in quel decrepito magazzino dell'Indiana Avenue. Stavano confezionando pantaloni corti e camicie da uomo, mutande da bambino e vestiti per sé. Molte ragazze nubili, evidentemente incinte, confezionavano corredini per neonati. Mi spiegarono che confezionando un corredino per altri si aveva il diritto di farne uno per sé e anche di prendere il materiale necessario per confezionarsi una camicia e una vestaglia da indossare in ospedale. Tutte godevano del mio stesso trattamento, avevano l'alloggio pagato e ricevevano un sussidio per il vitto. Inoltre, per 24 ore di lavoro in sartoria prendevano $1 a settimana e acquisivano il diritto di sistemarsi il guardaroba. Mi confezionai della biancheria un abito di cotone. Poi, sotto la direzione di un abile vecchio sarto, appresi i primi rudimenti dell'arte di confezionare le camicie da uomo. Un giorno l'assistente sociale mi fece chiamare, mi squadrò con occhi di fuoco e mi scosse per un braccio. «Perché ci hai mentito?» disse. Le informazioni che ci hai dato erano soltanto un cumulo di menzogne e noi ti abbiamo aiutato, ti abbiamo dato da mangiare, ti abbiamo dato alloggio e vestiti. Perché l'hai fatto? In un modo o nell'altro erano riusciti a scoprire chi ero, perciò mi ritrovai per la strada, ma non mi importava perché in ogni caso era tempo che mi mettessi in marcia per tenere fede all'appuntamento con Schrader. Viaggiando con l'autostop arrivai a St. Louis in tempo per il mio compleanno. Con un piccolo stratagemma Lowell Schrader era riuscito a mandare la moglie, sposata di recente, fuori città. Così lo ebbi tutto per me. Aveva più capelli grigi ed era più corpulento di quando l'avevo conosciuto, ma la sua amabilità e il modo autoritario di parlare non erano cambiati affatto. Gli raccontai del mio lavoro, di Jordan, della bambina, di Bigotto e del Globe. Sedeva nella grande poltroncina in soggiorno e sul suo vecchio nobile volto brillava una luce di comprensione e di interesse. Oltre al mio lavoro, sono anche segretaria o custode della Unemployed Women's Education Association. Percepisco un piccolo salario per questo e faccio anche una dozzina di altre cose. Al momento mi interesso soprattutto della Università delle Vagabonde. Tutte le spese, circa $500 al mese, sono pagate dal capo. Non vuole che si sappia il mio nome. «Che tipo è?» domandò Schrader. Ha derubato i ricchi, ne è consapevole, legalmente, legittimamente, con l'aiuto e l'incoraggiamento del governo. Ha un'anima e vuole salvarla, perciò finanzia le università delle vagabonde e ci ha lasciato $50,000 nel suo testamento. Berta, mi domandò serio, come spieghi questa tua natura poligama o eclettica? Hai avuto più amanti di me. E sembri fedele e devota a tutti quanti, eppure, anche se so che hai avuto molti uomini, sono certo che gli uomini non riempiono la tua vita, non è così? La tua bambina soddisfa la tua natura? No, gli uomini non mi soddisfano più di quanto mi soddisfi la mia bambina. Ho paura di lei, non so perché, ma proprio ultimamente avevo deciso di stabilirmi a New York e di diventare una buona madre. Eppure non ci riesco. Perché ho paura di mia figlia? Perché voglio più di un uomo? In realtà ho sposato un vagone merci. Ho come una frenesia nell'anima che solo la strada e i vagoni merci possono placare. Il lavoro, gli amanti, mia figlia, nulla riesce a togliermi la voglia di viaggiare. Siamo sulla stessa barca, confessò. Più cose imparo sui disoccupati. Più disoccupati ci sono, più mi batto contro la guerra, più guerre ci sono. Più laureati e professori escono dalle università, più incertezze ci angustiano. Più conosciamo le contraddizioni e le ingiustizie del capitalismo, più esso diventa potente. Tu sai che negli ultimi anni ho guadagnato molto denaro, circa $500,000, grazie a un affare di terreni. Ma ciò non mi soddisfa più di quanto le cose che tu hai fatto soddisfino te. Quanto a te, a dispetto dei tuoi genitori agnostici, hai ereditato una natura profondamente religiosa. Sei una mistica religiosa, un'anarchica cristiana che va in cerca di Dio sui vagoni merci. Ovunque tu vada, con i treni o con l'autostop, stai sempre fuggendo da qualcosa e al tempo stesso stai cercando qualcos'altro. «E dove posso trovarlo, Lowell?» chiesi. «Torna a New York», rispose serio. «Sistemati e lascia che tua figlia cresca con te». Sedemmo a lungo in silenzio, poi gli presi la mano e la tenni stretta. «C'è qualcosa che vorrei tu facessi, Lowell», dissi. «Qualcosa per me e per migliaia di altre come me. Tu hai molto denaro. Ricordati delle università dei vagabondi e degli altri miei progetti nel tuo testamento. Così sei diventata una cercatrice d'oro, eh?» sorrise. «Sì, se vuoi metterla in questo modo. Volevo essere una missionaria per i vagabondi, ma mi rendo conto che senza modificare l'intero sistema economico non si può fare altro di utile se non nutrirli e vestirli. Purtroppo per ora la maggior parte della gente vuole tenersi il sistema capitalista. Spero che non sarà sempre così. E poi volevo aiutare gli assistenti sociali e i sociologi. Ma più mi dedico alla ricerca, più mi convinco che essi sono soltanto miseri, ottusi, strumenti nelle mani di un sistema possente. Mi interruppi, ma egli mi abbracciò e mi incoraggiò. «Vai avanti, Berta», disse. «Hai detto di avere guadagnato $500,000, portando a termine quella grossa vendita terriera. Allora la prima cosa che devi fare è prendere $100,000 in contanti, caricarli su un camion della Nettezza Urbana, andare nei quartieri dei vagabondi, negli slum, nel ghetto, nei quartieri negri, mettere al lavoro due uomini con la pala e spargere i biglietti in mezzo alla folla, in modo che tutti possano arraffarli. Dio, è uno spettacolo che non voglio perdere. Regala $100,000 alle università dei vagabondi maschili e femminili. Fai in modo che abbiano sedi in cui si possa stare comodi, al caldo, dove gli obo possono scrivere poesie e sognare, lavarsi e rammendare i vestiti, fare un bagno e oziare in santa pace, e dove possano farsi da mangiare. Dai $100,000 perché i detenuti possano avere accesso alle università statali. Fa che ogni anno debbano sostenere un esame presso il penitenziario e che il governatore conceda la grazia a quelli che superano la prova di ammissione all'università. Ci sono migliaia di uomini in galera che dovrebbero essere trasferiti nelle università. Molti studenti rispettabili ne trarrebbero grande giovamento». Schrader scoppiò a ridere. «E che cosa ne diresti di trasferire alcuni degli studenti al penitenziario?» «Sarebbe un equo scambio», replicai, e continuai. «Dai alla tua famiglia quello che ti sembra giusto, ma distribuisci $100,000 tra i vari movimenti di propaganda, tra i movimenti dei disoccupati, anarchici, socialisti, comunisti, per il libero amore, per la libertà di parola, per l'assistenza ai carcerati. Il tuo denaro non farà loro del bene, ma sarà un ottimo esempio. Almeno dimostrerai al mondo che non eri un imbroglione o un bugiardo. Quando un uomo lascia il suo denaro alla Chiesa, dimostra che per lui la cristianità era importante. Se tu lasciassi i tuoi soldi al movimento radicale, dimostrerai che esso era importante anche per un uomo ricco, fosse anche uno solo». Per molto tempo ancora, dopo che Schrader fu andato a dormire, rimasi sveglia, con lo sguardo fisso nel buio, immersa nei miei pensieri. Nell'intimo sapevo naturalmente che dovevo fare come Schrader mi aveva consigliato, sistemarmi e diventare una brava madre. Avevo detto che stavo fuggendo da qualcosa e improvvisamente seppi che cos'era. Avevo cercato sempre di sfuggire al mio bisogno di essere responsabile per qualcuno, di vivere per qualcuno, per una persona speciale che appartenesse a me sola. Per anni avevo ripetuto a me stessa che non volevo avere legami, che volevo essere libera per aiutare gli altri, per elevare le masse, l'umanità travagliata. Ora sapevo che avevo soltanto razionalizzato il mio bisogno di essere madre, dissipandolo per mare e per terra, quando ciò che più di ogni altra cosa poteva soddisfarlo era a portata delle mie braccia. Oh, avrei certo continuato il mio lavoro, i miei progetti, avrei fatto per i poveri e senza tetto cose anche più grandi e più belle di quello che avevo immaginato, ma prima avrei messo ordine nella mia vita, prima avrei soddisfatto il bisogno di assolvere al mio compito particolare. Quando finalmente mi addormentai, provai un senso di impaziente attesa del nuovo giorno che mi avrebbe riportato alla mia bambina e a una nuova vita. L'indomani mattina, quando ci salutammo, Schrader mi porse una busta. Aveva redatto il testamento secondo i miei suggerimenti e aveva nominato Andrew Nelson e me suoi esecutori testamentari. «Che cosa farai, Berta?» domandò. Oh, caro, me ne andrò a casa, risposi con entusiasmo. Me ne torno a casa dalla mia bambina. Potrà sembrare ridicolo, ma mi sento come se tornassi a casa per la prima volta in vita mia. Tanti auguri, cara, disse e mi baciò. Schroeder mi aveva comprato un biglietto di prima classe e mi aveva riservato uno scompartimento. Fui così contenta di essere sola. Avevo fretta di arrivare e non volevo che qualcuno interrompesse i miei pensieri. Stranamente continuò a risuonarmi nella mente uno degli inni che cantavano nella Home Colony. Sono salva, lo sono, lo so che lo sono. Non me ne importa un fico perché lo so che lo sono. Un chilometro dopo l'altro, un'ora dopo l'altra, sedetti quasi in trance, mentre le ruote sferragliando mi portavano sempre più vicino alla mia bambina. Ebbi la sensazione di non viaggiare soltanto da St. Louis a New York, ma da un passato logoro e lontano a un nuovo radioso futuro. Mi riscossi dalle mie fantasticherie solo quando il treno entrò nel Pennsylvania Depot a New York. Era tutto così strano, ma era vero. E ora era anche così chiaro. Mi resi conto di aver sempre immaginato in anticipo tutto ciò che mi sforzavo di imparare. Prima di percorrere ogni nuovo chilometro sulla strada, sapevo già come era fatto. Tutte le mie esperienze con i vagabondi, con i criminali, con il sesso, con i radicali e con i rivoluzionari avevano soltanto confermato ciò che avevo sempre saputo e sentito dentro di me. Tutto quello che avevo imparato in questi 15 anni, profondi e ricchi, si riduceva a un po' di sociologia e di economia, a qualche tipologia, a criteri di classificazione, a cifre. Qualsiasi studente universitario poteva apprendere le stesse cose in un semestre e da un libro di testo, ma avevo raggiunto il mio scopo, avevo fatto tutto quello che mi ero prefissa di fare. Avevo voluto sperimentare che cosa si prova a essere una vagabonda, una radicale, una prostituta, una ladra, una riformatrice, un assistente sociale e una rivoluzionaria. Ora lo sapevo. Rabbrividii. Sì, era valsa la pena. Non c'erano state tragedie irreparabili nella mia vita. Sì, le mie preghiere erano state esaudite. Ero raggiante quando scesi dal treno e quasi finii addosso al capotreno che teneva per mano la mia bambina. Ne fui colpita. Era una fanciulla robusta, bellissima, con gli occhi azzurri e i capelli rossi, felice e aveva soltanto 8 anni. Andrew Nelson ci attendeva al cancello. «Beh, Boxcar Berta, che cosa c'è di nuovo? Hai l'aria di una che ha attraversato le montagne su soffici cuscini con un paio di angeli a farti da compagnia». Proprio così risposi, con uno stuolo di angeli. Fine. Thank you. Libri ribelli. Giocare col mondo facendo a pezzi bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.